E al momento la perturbazione è un pochino più forte, come avevamo previsto, sul litorale. Per fortuna sta scaricando molto a mare. Diciamo l'evoluzione al momento è favorevole rispetto a quello che si prevedeva sulla città di Roma. È possibile che... Siete comunque in allerta, pronti noi per intervenire? Abbiamo forze rilevanti in tutti i municipi, in particolare sul 13° municipio, che sapete soffre di problemi strutturali, infrastrutturali, storici, e quindi abbiamo lì un presidio particolarmente nutrito di volontari e di squadre di emergenza.